pietà, né disprezzare, o bella, perché sei di bellezza un ampio mare, il torrente fedel. Thank you. Thank you. Vigerò.